9 anni fa. Il mio inizio. Il mio passato. Hip hop nel cuore. 006 Secoman sul beat. Marcia, marcia, marcia. Questa è la mia marcia. Marcia, marcia, marcia. Marcia, marcia, marcia. Questa è la mia marcia. OBLI. Anno 997, il mio inizio 21-0. 47 da Saronno City in trasmissione. Da quartiere Matteotti porto in giro il nome nella mia fazione d'animale. Bacillo d'influenza maniacale nel sapore cittadino, suona la mia strumentale. Ho inciso dischi a raffiche, drogato d'inquietudine, pagine d'abitudine, simmetriche, dimetriche tra fabbriche abusive. Veleno che mi inquina, soffio d'alito di sangue acido. Gira sola sopra il piatto, la rubrica dimezzata, vuota, cancellata, perché smesso. Mi vendi i tuoi vestiti a poco prezzo nel sacchetto, cambi moda, stile, mi regali il tuo vinile, infami ciò che ho messo. E io ventaglio in controluce, incido col diamante la tua croce nel castello. A guardia del mio impero, sentinella delle mie segrete, adesso non si accede. Marcia, marcia, marcia, questa è la mia marcia. Tempo indietro ho conosciuto un rapper solo, con il quale ho preso il volo. Per un testo letto sopra il cesto, adesso indosso il mio kimono. Forse tutto questo sarà polvere, ma è oro nella cenere. Scrittura come Venere, bellezza, lucentezza, pane quotidiano va a risorgere. Passione che sublima la miseria. Ci ho fatto 4 soldi, ma mi sento il capostipite del mio pianeta. Ho una pineta di betulle che da ossigeno mi eleva. Scrivo quando dormi, mentre parli, la mia rabbia nella nebbia, quando meno te l'aspetti, quando scoppi e fai giochi perversi. Scrivo quando è primavera, con gli ormoni congelati dentro una cultura indomita. Preghiere d'ora soci nei negozi, mentre resto tra i miei vizi in paranoia come i vecchi negli ospizi. Ma non sono mai in galera, no. Ma non sono mai in galera, no. Ricorda, ricorda, ricorda.